Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per alleviare lo stress dei soldati impegnati al fronte, il governo americano inviava anche dei dischi in vinile. Ora il Dipartimento della Difesa ha adottato una nuova strategia per riportare un po' di serenità tra le truppe impegnate nelle missioni di pace in Medio Oriente. Spettacoli teatrali realizzati appositamente per loro. Se un miracolo avesse infuso la vita a quelle figure di marmo nel frontone del Partenone, esse avrebbero certamente parlato la lingua di Sofocle. Pur senza scomodare gli elogi di Nietzsche o la catarsi aristotelica, il Dipartimento della Difesa americano si è rivolto alla tragedia greca per porre un argine ai disturbi psicologici da stress post-traumatico dei suoi soldati. Dopo la recente strage di Fort Hood, in cui il maggiore psichiatra Malik Hassan ha sparato all'impazzata sui commilitoni, uccidendone 13, il Pentagono ha disposto 3,7 milioni di dollari per la compagnia indipendente Teatro di Guerra, rivela il New York Times. L'ingaggio va da qui all'estate prossima. Il programma prevede allestimenti e reading in 50 basi militari della Iace e del Filottete di Sofocle. La tournée per ora ha toccato Fort Riley in Kansas, l'Accademia Militare di Bethesda e il St. Vincent's Hospital di Manhattan. Il gruppo vanta attori del calibro di David Strathairn, nomination all'Oscar per Good Night and Good Luck, Jeffrey Wright, Angels in America, e Gloria Reuben, ER, ed è diretto da Brian Durris, che dice: «Sofocle stesso fu un generale, e l'Atene del suo tempo era in guerra da decenni. Ci auguriamo che i nostri soldati rileggano le proprie difficoltà in un più ampio contesto storico e forse si sentano meno soli. Come invece lo sono Aiace e Filottete. L'uno accecato dall'odio da Atena, l'altro tradito e ingannato dai compagni. Il primo morto suicida per onore, il secondo salvato dal Deus ex machina Ercole». Dopo gli spettacoli, gli artisti discutono con il pubblico, composto da terapeuti, militari, veterani del Vietnam e soldati rientrati dalle guerre in Iraq e Afghanistan. Chi se la sente parla del proprio disagio, delle dipendenze da alcol e droghe, delle notti senza sonno di macbettiana memoria. È stato calcolato che più della metà dei veterani in Vietnam, circa 1,7 milioni, ha manifestato i sintomi del disturbo da stress post-traumatico, PTSD, regolarmente registrato, su pressione dei militari, nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Oltre ai problemi psichici, il PTSD può portare anche all'infarto e al tumore. Il progetto di Teatro di Guerra non scade mai nel pietismo e nello psicodramma. «La nostra non è terapia di gruppo», dice ancora il regista. «Attraverso le parole di Sofocle proviamo a dischiudere il mondo interiore dei militari. Il vero obiettivo è eliminare lo stigma contro i disturbi mentali, mostrando che anche eroi coraggiosi ne hanno sofferto». I greci ignoravano la psicologia, eppure avevano una sapienza sottile e sotterranea dell'animo umano. Non a caso molte patologie psichiche sono state battezzate da Freud con nomi di eroi ed eroine del mito, quelle cose che non avvennero mai ma sono sempre, come scriveva Sallustio. Altro e più resistente stigma da sradicare è quello contro le cure, spesso rifiutate per onore o vergogna. Anche in questo caso sono i greci a soccorrere. L'eroe non è una semplice macchina per uccidere, è eroe tanto nel suo coraggio di fronte alla morte quanto per la sua vicinanza al dolore, spiegava Hélène Monsacré nel saggio Le lacrime di Achille. Così, quando Achille non combatte, piange. Ma questo è un altro mito. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Camilla Tagliabue dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Aaron Cohen è un ebreo canadese che nel 1994 decide di lasciare gli Stati Uniti per realizzare il suo sogno, far parte del Sayeret Duvdedan, la più selezionata delle unità delle forze speciali israeliane. Un addestramento massacrante, sia a livello fisico che a livello psicologico, permette di trasformare gli uomini in guerrieri e prepararli a fronteggiare gli orrori degli attentati palestinesi. Uno dei più sanguinosi che Aaron ricorda è quello che avvenne nel 1996 nel centro commerciale di Dizengoff. Alle 4 del pomeriggio del 4 marzo 1996, mentre Israele si preparava alla festività di Purim, un'immensa esplosione squarciò il centro di Tel Aviv. Percepii la deflagrazione prima ancora di sentirla. Sdraiato sul divano di Tal, mi resi conto che la canna del mio fucile d'assalto stava vibrando. Mentre l'intera casa tremava, una sveglia e una cornice con la foto di Tal e due compagni delle forze speciali caddero da una mensola e si ruppero. Alzai a malapena la testa. Essendo cresciuto a Los Angeles, ero da tempo abituato ai terremoti e alle scosse di assestamento. Per giunta ero troppo esausto per muovermi, sia mentalmente che fisicamente. Ero a Tel Aviv in licenza, la prima nei pochi mesi trascorsi dal mio ingresso nelle forze speciali. Ero riuscito a sopravvivere alla brutale selezione fisica e psicologica per diventare un lochem, parola ebraica che si traduce di solito con guerriero o combattente, e stavo aspettando con impazienza la mia prima missione sotto copertura per il Sayeret Duvdevan, l'unità d'élite antiterrorismo delle forze speciali israeliane. Mentre guidavo la mia auto delle forze di difesa israeliane dalla nostra base nel deserto fino a Tel Aviv, non pensavo ai festeggiamenti per il Purim. In Israele è un'occasione per bere, abbuffarsi e fare baldorie in maschera nei locali notturni. Non desideravo altro che una birra fredda e qualche ora di sonno sul divano. Tal era nel periodo di rotazione obbligatoria fuori dall'unità proprio mentre io stavo cominciando. Era un sabra basso e muscoloso, di discendenza sefardita, probabilmente il miglior istruttore antiterrorismo di tutta l'unità. Quando ci fu l'esplosione, Tal stava stappando un paio di bottiglie di birra Maccabi. La schiuma traboccò e l'onda d'urto lo sobbalzò contro il frigorifero. Si precipitò sul terrazzo e io lo seguii. Il perfetto cielo azzurro del Mediterraneo si stava oscurando velocemente. Un'enorme nube di fumo nero si innalzava in fondo alla strada e avanzava verso di noi. «Pigua, pigua!» urlò Tal, la parola ebraica che indica un attacco terroristico. Era perfettamente calmo, ma il suo sguardo si spostò verso il soggiorno, fermandosi sul fucile d'assalto. Presi il mio M4, una versione più leggera dell'M16, e ci lanciammo giù per le scale, dirigendoci verso il centro commerciale di Dizengoff. Se davvero si trattava di un attacco terroristico, pregai che il bersaglio non fosse il centro commerciale. Situato all'incrocio tra via Dizengoff e King George Street, è il più famoso e frequentato della città, e alla vigilia di Purim sarebbe stato sicuramente pieno di ragazzi, turisti, bambini e giovani madri con i passeggini. Arrivammo sul luogo dell'esplosione dopo neanche mezzo minuto, e le mie peggiori paure si concretizzarono. La bomba aveva squarciato l'ingresso del centro commerciale, creando una scena di devastazione indescrivibile. Corpi straziati e membra dappertutto, braccia tranciate, cadaveri decapitati. Una soldatessa mi fissava da terra, urlando e contorcendosi, una gamba troncata all'altezza dell'anca, l'altra completamente dilaniata. Sapevo che sarebbe morta dissanguata prima che si potesse stabilire la priorità dei feriti da soccorrere, la procedura nota come triage. Mentre mi voltavo, il mio scarpone scivolò sul pavimento viscido di sangue. Il centro commerciale di Dizengoff somigliava più a un campo di battaglia che alla scena di un crimine. Non impiegammo molto a capire quel che dovevamo fare. Nessuno aveva la minima idea di cosa stesse succedendo e il panico collettivo stava crescendo in maniera esponenziale. Tutti i membri delle forze dell'ordine presenti, poliziotti e agenti della polizia di frontiera che abitualmente si posizionano prima dell'ingresso a controllare le borse, erano morti oppure agonizzanti. Tal mi scoccò un'occhiata rapida e tagliente. Annui, toccava a noi prendere il controllo della situazione. Caricai il mio M4 e cominciai a correre attraverso la folla urlando in ebraico: «Levatevi di torno, via, via!» Lo gridai a una ragazza che mi fissava pietrificata dal terrore. Quando si voltò, vidi del sangue colarle lungo il viso, da un buco nero e rosso. Un occhio le era uscito dall'orbita. Ci sono tre regole fondamentali quando si interviene per primi sul luogo di un attentato. 1. Individuare tutte le minacce. 2. Neutralizzarle. 3. Ripulire la zona. Io e Tal stavamo cercando altri pericoli attivi. Una borsa abbandonata, una persona con un atteggiamento troppo calmo, con lo sguardo fisso davanti a sé, oppure qualcuno che urlava come un matto, specialmente in arabo. Dopo aver ispezionato l'area e averla giudicata sicura, tale Dio ci dedicammo all'atroce compito di posizionare i corpi per il triage. Nessun addestramento poteva avermi preparato alla realtà delle operazioni di soccorso. Il mio corpo fece semplicemente quello che doveva, senza aspettare ordini dal mio cervello. Svolgevo le attività necessarie solo a un livello fisico, senza prendermi il tempo per riflettere sulle scene raccapriccianti, anche se a volte la consapevolezza si insinuava nella mia mente prima che potessi fermarla. Quello è un pezzo di cervello, quello è un piede di una ragazza. L'attentato al centro commerciale di Zengoff mi cambiò, mutò la mia mentalità, le mie priorità e il mio attaccamento alla carriera nelle IDF. Per sempre. Durante le operazioni di soccorso di quel terribile lunedì, per la prima volta una persona morì tra le mie braccia. Avrà avuto sì e no 14 anni, con l'apparecchio ai denti. E mi ricordava la mia sorella più piccola, Adrienne, che viveva ancora a Los Angeles. Le sue guance erano striate e macchiate da un buco brillante giallo e rosso, attorno alla vita, i resti di paglia bruciacchiati di quello che poteva essere stato un gonnellino hawaiano. Continuava a chiedermi se sarebbe morta. Feci del mio meglio per sorriderle in maniera rassicurante, mentre le controllavo il polso. Continuava a chiedermi perché, mentre perdeva lentamente conoscenza. Le praticai la respirazione bocca a bocca mentre Tal le faceva un disperato massaggio cardiaco, ma nel giro di pochi attimi ci rendemmo conto entrambi che era morta. Udii le mie urla di rabbia unirsi al coro delle altre. La bomba al centro commerciale di Zengoff fu il quarto grosso attacco terroristico in 9 giorni. Un arco di tempo che, nella storia recente di Israele, resta il peggiore, quello con la più alta concentrazione di vittime civili. I primi attentati divennero poi noti con una raggelante abbreviazione, come gli attacchi del Gerusalemme 18. Il mattino del 25 febbraio 1996, un attentatore suicida si fece esplodere sull'autobus numero 18 nella centralissima Jaffa Road, vicino alla stazione centrale degli autobus. 26 persone restarono uccise e almeno altre 80 ferite. Meno di 30 minuti dopo, un secondo kamikaze si fece esplodere alla fermata del bus nella vicina città di Ashkelon, uccidendo 2 persone e ferendone 38. Non passò neanche una settimana e la mattina del 3 marzo un altro attentatore suicida prese di nuovo di mira la linea 18, causando 19 morti e 7 feriti. Lo Shabak stabilì che la responsabilità degli attentati era da attribuire ad Hamas. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Aaron Cohen e Douglas Century, Fratelli Guerrieri, dietro le linee nemiche con l'elite dei comando antiterrorismo israeliani. Longanesi Editore, 256 pagine, €16,60.